Benvenuti a The Debate. Oggi affrontiamo un tema che credo ci tocchi tutti da vicino. Partiamo dal testo Mappe concettuali nella didattica di Mario Gineprini e Marco Guastavigna per esplorare un nodo cruciale della rappresentazione della conoscenza, cioè quando cerchiamo di fissare un concetto che sia per studiare, per insegnare o, beh, semplicemente per fare ordine mentale, stiamo solo facendo un riassunto grafico o stiamo letteralmente dando forma al modo in cui pensiamo? Una bella domanda. La questione centrale del nostro confronto di oggi è proprio questa. Da una parte c'è la prospettiva che sosterrò io. Sono convinto che per consolidare e comunicare davvero l'apprendimento, la mente umana abbia un bisogno vitale di una struttura organizzativa, gerarchica e lineare. Parliamo di logica ferrea, di connessioni causali che vanno dall'alto verso il basso. E dall'altra parte c'è la prospettiva che difenderò io, perché in ambienti complessi, specialmente quelli digitali in cui siamo immersi oggi, l'apprendimento autentico richiede un modello a rete, un approccio ipertestuale. Sono convinta che costringere la fluidità della conoscenza dentro una rigida progressione lineare sia un riduzionismo del tutto artificiale. La mente umana non procede per, sai, file indiane di concetti, è multidirezionale. E solo una struttura reticolare riesce a rispecchiare fedelmente la vera e meravigliosa complessità del sapere. Per inquadrare bene la mia posizione, però, dobbiamo fare subito una distinzione chiara sui termini, basandoci proprio sul testo di Gineprini e Guastavigna. Non stiamo parlando di un semplice brainstorming. Loro separano nettamente le mappe mentali dalle mappe strutturali. Le mappe mentali, per intenderci, sono quelle rese famose da Tony Busan, radiali, piene di ramificazioni libere, colorate, molto legate all'intuizione del momento. Vanno benissimo per far emergere idee a ruota libera, certo, ma il cuore della didattica, il vero apprendimento consolidato, risiede nelle mappe strutturali. Che sono strumenti molto più normati, esatto. Precisamente. Lo scopo di una mappa strutturale è prendere un testo scritto, che per sua natura ti costringe a leggere una parola dopo l'altra in un'unica direzione, e trasformarlo in una visualizzazione grafica multidirezionale, ma che sia oggettiva e condivisibile. L'apprendimento è un percorso. David Rumelhart, che viene citato per spiegare questa dinamica, parla di una prima fase di accrescimento. È il momento in cui creiamo delle mappe ingenue. Immagina di svuotare uno scatolone di pezzi del puzzle sul tavolo. Hai tanti concetti, ma sono disordinati. Il passaggio cruciale, però, è arrivare a quella che lui chiama fase di Ristrutturazione cognitiva. Esatto, la ristrutturazione cognitiva, costruendo mappe esperte. E qui è il punto. Questo passaggio richiede ordine, altrimenti cadiamo nel caos. Ma la domanda è: che tipo di ordine? Un ordine rigoroso basato su asserti proposizionali inequivocabili. Significa usare parole concetto ben definite, di solito dei nomi, collegate tra loro da parole legame, che di solito sono dei verbi. Soggetto, predicato, oggetto. Una frase chiara. L'acqua evapora con il calore. La conseguenzialità lineare e i collegamenti verticali non sono una punizione che la scuola infligge agli studenti, sono l'impalcatura logica di cui il nostro pensiero ha bisogno per spiegare, per argomentare e per dimostrare di aver capito davvero un'architettura di concetti complessi. Capisco la rassicurazione che deriva da un ordine così categorico. È confortante avere tutto irreggimentato in caselle ordinate, ma la mia prospettiva si fonda sul modello connessionista. Se guardiamo a come funziona biologicamente e cognitivamente la mente umana, e se guardiamo al mondo stesso che cerchiamo di mappare, quella rigida sequenza dall'alto verso il basso è del tutto insufficiente. Nel mondo reale la sequenzialità viene costantemente infranta a favore di una circolarità dell'informazione. Eppure per secoli abbiamo appreso attraverso i libri, che sono intrinsecamente sequenziali. Certo, ma come sottolineano storici e studiosi come Bolter e Landau, quella linearità non era una scelta cognitiva, era un limite fisico. Il libro stampato ti obbliga a mettere una pagina dopo l'altra. L'ipertestualità, invece, è la tecnologia che ci ha finalmente permesso di superare questa frattura storica. Il pensiero umano non è sequenziale, è associativo. Quando pensi a un concetto, la tua mente non scende lungo un organigramma aziendale, esplode in decine di direzioni diverse, accendendo ricordi, nozioni parallele, immagini. Ma una mappa didattica non è una risonanza magnetica del cervello in tempo reale, È uno strumento per comunicare un sapere. E proprio per questo non dovrebbe mentire su come quel sapere è strutturato. Imporre una gerarchia grafica, top-down, dove un concetto padroneggia su tutti gli altri, non significa stabilire una vera gerarchia concettuale. Il testo analizza software molto interessanti per spiegare questo, come ad esempio Personal Brain. Se tu usi un programma del genere, vedi plasticamente cosa intendo. I nodi concettuali non stanno fermi in una piramide immobile. Hanno connessioni multiple. Ci sono parents sopra di loro, children sotto, ma soprattutto ci sono i jumps, i salti laterali, che creano correlazioni impreviste e trasversali. Che è esattamente ciò che rischia di confondere un discente. O di illuminarlo. La cosa fantastica di ambienti dinamici come quello è che il centro della mappa cambia a seconda di dove clicchi. Se sposti il focus su un nodo periferico, l'intera mappa si riorganizza attorno a esso. È come navigare su Wikipedia. Parti dalla Rivoluzione francese, clicchi su un dettaglio riguardante un certo tipo di pane dell'epoca e improvvisamente il centro della tua indagine diventa la storia dell'agricoltura europea. Questo dimostra che il sapere è fluido, multidimensionale. Ogni singolo concetto può diventare il centro temporaneo di una rete enorme, senza essere per forza schiacciato sotto un'unica, oppressiva prospettiva gerarchica imposta dal docente. Capisco perché la pensi così, ma lasciami offrire una prospettiva diversa mettendomi nei panni di uno studente che sta cercando di imparare un argomento nuovo, da zero. C'è un problema enorme e molto concreto nella reticolarità pura di cui parli, ed è quello che lo psicologo Antonietti definisce il forte carico cognitivo. Ovvero, la fatica mentale di elaborare troppe informazioni. Esatto. Prova a immaginare la mente come una scrivania. Se ti dà un documento alla volta, organizzato per priorità, riesci a leggerlo, capirlo e archiviarlo. Se ti rovescio addosso 3.000 fogli, tutti collegati tra loro con fili rossi, come nella bacheca di un detective impazzito, vai in tilt. Quando immergiamo uno studente in una rete ipertestuale priva di una chiara direzione verticale, il rischio di disorientamento è assoluto. L'apprendimento autentico non avviene, degrada in una semplice esplorazione curiosa ma superficiale. Navighi tra frammenti disparati senza mai costruire uno schema mentale solido. Ma la costruzione dello schema deve riflettere la realtà, non semplificarla fino a banalizzarla. E qui entra in gioco il principio vitale della schematizzazione. Una mappa strutturale non deve avere l'assurda ambizione di replicare l'intera complessità dell'universo. Se una mappa in scala 1 a 1 fosse utile, non useremmo le mappe, useremmo il territorio stesso. La mappa serve a spiegare i meccanismi di quel territorio. Se io ti consegno una mappa concettuale che è aggrovigliata e caotica quanto il fenomeno scientifico o scientifico che sta cercando di descrivere, quello strumento perde ogni funzione. L'impalcatura verticale, con i suoi legami inclusivi o causali, agisce come un imbuto cognitivo. Permette alla mente di processare la complessità a dosi gestibili, senza esserne letteralmente sommersa. Io la vedo da un'ambulaccione diversa. Il rischio che descrivi esiste, ma curarlo con la semplificazione estrema è peggio della malattia. Semplificare artificialmente un dominio di conoscenza complesso solo per rassicurare lo studente porta dritto a quello che il filosofo Tagliagambe chiama il tarlo del riduzionismo. Il riduzionismo è spesso necessario per la comprensione iniziale, però. Fino a un certo punto, l'illusione di poter prendere una materia complessa, farla a fette, parcellizzarla e infilarla in comode cascatelle verticali finisce per svuotare quella conoscenza del suo significato profondo. Prendi un ecosistema biologico, non puoi spiegarlo con un organigramma verticale stile amministratore delegato o direttori impiegati. È una rete di interdipendenze. La complessità richiede strumenti concettuali che le somiglino. Nel testo si cita Antinucci, il quale teorizza che la reticolarità abbia il grado più alto di isomorfismo rispetto alla struttura del sapere. Per chi ci ascolta e magari non mastica questo termine tutti i giorni, l'isomorfismo indica una somiglianza di forma, giusto? Perfetto, sì. Significa che la mappa ha la stessa forma della cosa che sta mappando. Se il mondo è una rete aggrovigliata di sistemi che si influenzano a vicenda, insegnare a uno studente a capirlo attraverso una piramide rigida significa dargli una mappa che mente. È come dare la mappa della metropolitana a qualcuno che deve scalare una montagna. Le linee dritte e pulite non lo aiuteranno a capire i veri dislivelli del terreno. Il vero traguardo didattico non è fuggire dalla complessità perché abbiamo paura che lo studente si stanchi, ma allenarlo a navigare in quella rete. Spesso sono proprio i legami orizzontali e trasversali a trasportare le intuizioni più brillanti. Eppure, se guardiamo all'evidenza empirica raccolta nelle aule e documentata da Gineprini e Guastavigna, la storia che emerge è ben diversa. Gli autori notano che quando gli studenti vengono messi davanti a questi software e lasciati liberi di mappare un dominio di conoscenza, beh, indovina un po', sviluppano quasi naturalmente mappe strutturali che si estendono lungo un asse verticale. Anche i ragazzi più smanettoni, quelli che hanno grande familiarità con gli strumenti digitali. Ma questo non prova che sia la struttura naturale della mente umana? Prova che sentono il bisogno di quell'impalcatura. La usano per far scendere logicamente i concetti. Costruiscono i loro discorsi appoggiandosi a collegamenti causali. Questo causa quest'altro, oppure questo include quest'altro. I collegamenti orizzontali ci sono, certo. Magari aggiungono una freccia laterale per una sequenza temporale o un dettaglio spaziale, ma sono rari. Fungono da abbellimento o da completamento, non reggono l'edificio concettuale. Questo fenomeno spontaneo ci dice che, quando dobbiamo elaborare la realtà per comprenderla e spiegarla a qualcun altro, l'organizzazione gerarchica è intrinsecamente più funzionale. È la sintassi naturale del nostro pensiero logico e consapevole. Mi dispiace, ma proprio non ci credo. Lascia che ti spieghi il motivo. Usando proprio le riflessioni degli stessi autori del testo. Il testo ammette esplicitamente che questa cosiddetta tendenza naturale alla verticalità ha un'origine molto sospetta. Non stiamo affatto guardando la natura incontaminata della mente umana, stiamo osservando un colossale bias cognitivo, un pregiudizio indotto da decenni di scuola. Quindi mi stai dicendo che gli studenti creano mappe verticali solo per abitudine scolastica? Assolutamente sì. Sono stati immersi fin dalla prima elementare in sistemi di apprendimento che glorificano la linea retta. Leggono libri che vanno da pagina 1 a pagina 100, scrivono temi su foglie e righe che vanno dall'alto in basso, ascoltano lezioni frontali puramente sequenziali. Il sistema scolastico li ha letteralmente addestrati a silenziare il loro pensiero reticolare. E non è solo colpa della scuola, è anche un problema di come sono progettati alcuni software. In che senso? I software citati dovrebbero agevolare la mappatura? Dovrebbero, ma a volte impongono la loro logica. Prendiamo Inspiration, uno degli ambienti digitali analizzati nel libro. Ha una modalità chiamata Outliner, che fondamentalmente è un elaboratore di testi strutturato ad albero. Se tu scrivi un concetto e poi premi il tasto Tab, il testo si sposta visivamente verso destra e diventa automaticamente un figlio, un concetto subordinato a quello sopra. Questa meccanica forza nello studente una sottomissione visiva stringente. Più a destra significa per forza meno importante. È una gabbia visiva che ti obbliga a pensare a forma di piramide. Ma se liberi lo studente da questi software da impaginazione testuale e gli dai un ambiente veramente dinamico, scoprirai che la sua conoscenza non vuole solo scendere, vuole espandersi in ogni direzione possibile. Però, aspetta. Fermiamoci su questo punto della gabbia visiva e dell'impostazione grafica, perché questa critica ci porta a un aspetto fondamentale del dibattito. Il rigore grafico e sintattico non è una gabbia, è uno strumento metacognitivo di un'importanza assoluta. Un modo elegante per dire che dobbiamo dare a tutto la stessa forma noiosa. Un modo per dire che, se una mappa deve servire a qualcosa in un'aula, deve poter essere letta, compresa e valutata oggettivamente da un insegnante e dai compagni. Non può essere solo un diario segreto introspettivo dello studente. Per far sì che diventi uno strumento di comunicazione didattica, servono indicatori visivi inequivocabili. Gineprini e Guastavigna insistono molto su questo. Un concetto evento, come ad esempio la Seconda Guerra Mondiale, non funziona logicamente come un concetto oggetto o un concetto tempo. Le parole legame, i verbi che uniscono questi nodi, devono esplicitare la relazione in modo cristallino. E per farlo serve per forza inquadrarli in una struttura rigida. Serve una grammatica condivisa, anche visiva. Gli autori mettono in guardia in modo molto netto contro l'uso indiscriminato di forme e colori bizzarri. Usano un termine fantastico, arlecchinate, Se uno studente mi fa una mappa dove un concetto è dentro una nuvoletta rosa, l'altro dentro una stella verde fluo, e i collegamenti sono frecce a zigzag senza senso, il messaggio si perde nel rumore estetico. Joseph Novak, uno dei padri delle mappe concettuali, suggeriva di usare una sola forma geometrica di base, l'ellisse. Pochi colori, forme pulite. Questo non per spegnere la creatività, ma per evitare ridondanze che distruggono il messaggio. L'ordine grafico lineare è semplicemente un protocollo di chiarezza. Pensa al semaforo. Se ognuno usasse i colori che preferisce per dire stop e vai, le strade sarebbero un disastro. Senza una sintassi rigida, il docente non riesce a individuare dove il ragionamento dello studente ha una falla. E lo studente stesso non riesce a comunicare la propria architettura di pensiero. È un argomento avvincente, ma hai considerato che questa fobia per le arlecchinate e questa ossessione per l'ordine grafico normato sono fondamentalmente un retaggio dell'era della carta stampata? La chiarezza non ha un'epoca, è sempre necessaria. La chiarezza sì, ma il modo in cui la otteniamo cambia. Nel mondo digitale, la mappa concettuale smette di essere un disegnino statico stampato su un foglio, diventa un ambiente navigabile, esplorabile, in cui puoi fare zoom, aprire finestre, nascondere rami. In uno spazio puramente relazionale e interattivo, la sintassi di collegamento non ha alcun bisogno di affidarsi a un asse verticale o a regole geometriche spartane per essere chiara. E quei collegamenti trasversali, quei jumps di cui parlavamo prima, che a te sembrano fattori di potenziale disordine o rumore visivo, io ti dico che molto spesso sono l'essenza stessa dell'innovazione. Innovazione o semplice confusione? Intuizioni brillanti. Nella storia delle idee, ma anche nel piccolo percorso di apprendimento di un singolo studente, i ponti trasversali sono le scintille dell'interdisciplinarietà. Immagina uno studente che collega improvvisamente una formula di fisica studiata a scuola con una tecnica di pittura del Rinascimento. Se lo obblighiamo a usare una struttura puramente piramidale, rigida, monocromatica, lo stiamo forzando a reprimere quel collegamento laterale, perché non c'è spazio logico nell'organigramma. Disciplinare in modo eccessivo la forma grafica, imponendo ellissi e frecce verticali preimpostate, rischia di castrare le vere potenzialità connettive e creative del pensiero. Arrivando a una sintesi della mia posizione alla luce di questo scambio stimolante, devo dire che la nostra discussione rafforza la mia convinzione sul valore didattico irrinunciabile della struttura. Non nego che, a livello ideale, la totalità delle conoscenze umane esiste in una rete infinita, un enorme ipertesto in cui tutto è connesso a tutto. Ma l'atto specifico dell'insegnare e dell'imparare, la costruzione quotidiana di quelle che Rumelart chiamava mappe esperte, richiede una calibrazione diversa. Richiede, come dicevo all'inizio, un'impalcatura. L'articolazione logica, causale e verticale che difendo è il filtro necessario. È lo strumento che permette alla nostra mente, limitata nel suo raggio di attenzione, di elaborare, validare e comunicare i concetti senza soccombere al sovraccarico cognitivo. Creare una mappa strutturale significa avere il coraggio intellettuale di estrarre un percorso coerente e argorentabile dal mare magno del caos interconnesso. D'altra parte, riassumendo la mia visione, rimango saldamente ancorata alla necessità di un'evoluzione epistemologica nel modo in cui facciamo didattica. Continuare a proteggere gli studenti dalla complessità è una battaglia di retroguardia. Abbracciare la struttura reticolare, accettare e valorizzare i jumps, i salti laterali e le architetture dinamiche non è un capriccio estetico. È l'unico approccio intellettualmente onesto per rispettare la natura frammentata, fluida e meravigliosamente interconnessa del mondo reale. Se limitiamo le mappe concettuali ai vecchi modelli ereditati dal riduzionismo testuale e dalla rigidità gerarchica, stiamo preparando i ragazzi a vivere in un mondo del passato. Non li stiamo dotando degli strumenti per navigare la vera ecologia dell'informazione contemporanea. La complessità non si nasconde sotto il tappeto di un ordine artificiale, la si abita, utilizzando modelli isomorfi che le rendano giustizia. Pensaci bene, però. Credo che ci sia un punto di convergenza molto potente nel nostro discorso su cui possiamo assolutamente concordare. Entrambi abbiamo riconosciuto che le mappe concettuali, che siano verticali, radiali o a rete, non sono mai strumenti neutri, non sono semplici riassunti. Come insegnano magistralmente Joseph Novak e Bob Gowin, pionieri di questa metodologia, le mappe sono formidabili dispositivi di apprendimento attivo. Sono l'incarnazione visiva del principio imparare a imparare. Esatto. Rendere esplicito ciò che normalmente avviene in modo oscuro e implicito nella nostra testa è un atto pedagogico di un valore inestimabile. E credo che concordiamo pienamente anche con la saggia conclusione a cui giungono Gineprini e Guastavigna nel loro testo. Alla fine, la polarizzazione assoluta non serve a molto. È necessaria una costante e fruttuosa contaminazione tra la chiarezza e il rigore dello sviluppo lineare e il coraggioso approccio alla complessità che offre la rete. Assolutamente d'accordo. Il libro che abbiamo analizzato ci apre un orizzonte metodologico enorme. Ci spinge non solo a discutere di teoria, ma a esplorare applicazioni didattiche concrete, a mettere le mani nei software. Che si preferisca la rassicurante linearità organizzativa di strumenti come Inspiration o chi ci si voglia lanciare nelle reti neurali e dinamiche di software come Personal Brain, la lezione è che ogni strumento modella il nostro modo di pensare, tanto quanto il nostro pensiero plasma l'uso dello strumento stesso. L'esplicitazione visiva dei nostri processi logici rimane il vero grande traguardo condiviso. Ben detto. A questo punto lasciamo a chi ci ha seguito il compito di esplorare e riflettere criticamente sulla propria architettura cognitiva. La prossima volta che vi troverete a dover mettere in ordine le vostre idee per comprendere a fondo un argomento, vi affiderete alla chiarezza di una solida piramide o inizierete a tessere le infinite connessioni di una rete. Grazie per aver partecipato a The Debate.